English Bit di Giulia Crivelli. Push. Obama makes final push on key legacy areas. Il presidente Obama dà un colpo finale sulle eredità più importanti del suo mandato. La parola che ci interessa è push, usata qui come sostantivo. Notare la pronuncia che ricalca quella di Bush, cespuglio, oltre che presidente degli Stati Uniti, ed è diversa da quella di rush, fretta, o lush, letteralmente lussuria. Nel significato che ha nel titolo appena citato di un servizio del network televisivo CBS, push può essere usato anche parlando di battaglie. A final push against the enemy, un attacco finale contro il nemico, oppure the brand has begun a major push into the European market. Il marchio ha deciso di investire con decisione nel mercato europeo. Come verbo, regolare, push, pushed, pushed, i significati sono tantissimi. This development could push the country into depression. Questo sviluppo della situazione potrebbe spingere il paese nella recessione. Ma possiamo anche dire «My teacher pushed me into entering the competition». Il mio insegnante mi ha convinto a iscrivermi alla gara. Per restare in tema di scuola, «The music teacher really pushes her pupils». L'insegnante di musica sprona davvero i suoi allievi. In modo più figurato possiamo dire «The interview gave him a chance to push his latest movie». L'intervista gli diede l'opportunità di promuovere, lanciare il suo ultimo film. In tema di relazioni personali si può, ahimè, dire «He was devastated when his girlfriend gave him the push». Fu distrutto quando la sua ragazza gli diede il ben servito, diremmo in italiano. Da push viene anche pusher, spacciatore. Una volta si diceva drug pusher, adesso basta pusher. O pushover, persona facile da influenzare. «I don't think she will agree, she's no pushover». Non credo che acconsentirà, non è un tipo da farsi facilmente convincere. Pushy, aggettivo, significa insistente, a pushy salesperson è una commessa che ci assilla. Pushpin è la puntina da disegno, push up sono in italiano gli addominali. Se usato come aggettivo, però, il termine push up, come abbiamo imparato negli ultimi anni, può essere utilizzato per i reggiseni. Push back è una piccola sconfitta o marcia indietro. Push chair, infine, è un altro modo di dire wheelchair, letteralmente sedia a rotelle, mentre passeggino si dice stroller.